6. Ascolta e controlla. 1. Deve uscire subito. 2. Dobbiamo fare molte cose. 3. Dovete andare dal dottore domani. 4. Ogni giorno devono viaggiare in treno. 5. Oggi do l'esame di informatica. 6. Dà l'indirizzo al professore.